Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizi, è il momento su Radio 24 delle storie di cronaca, anche quando non sono in prima pagina sui giornali, così raccontiamo la nostra Italia in controluce. Di sanità ci siamo già occupati, questo spazio abbiamo parlato degli infermieri insostituibili ma mai abbastanza e poi dei medici di famiglia che rischiano la scomparsa per mancanza di sostituti generazionali. Ma c'è un'altra scomparsa silenziosa che preoccupa, è quella dei consultori pediatrici. Anche qui stiamo parlando di un punto di riferimento importante per molte famiglie. Eppure entro il prossimo inverno in Lombardia verranno chiusi e la stessa cosa sta avvenendo anche in altre città. Se ne è occupata Cristina Carpinelli. Si chiama rete ed è un supporto per le famiglie, soprattutto nelle grandi città, dove il concetto di famiglia allargata è saltato. Una rete che trovi quando varchi la soglia dei consultori pediatrici, un progetto che sta per terminare e sulla cui sorte già da tempo era scritta la parola fine. Da anni si assiste a un lento decadimento, una sorta di abbandono, una carenza di corsi di aggiornamento, figure di rilievo costrette a lavorare con pochi mezzi in sedi che non ristrutturate diventano lentamente inagibili. Ma non c'è solo questo, secondo Marzia Oggiano, segretario generale della Funzione Pubblica CGIL di Milano. Noi ravvisiamo nelle scelte che si stanno compiendo in questi ultimi mesi e in questi ultimi anni una volontà di chiudere i servizi al territorio. In particolare sono servizi rivolti alla famiglia e al disagio sociale. Questo fa sì che perdano via via ruolo e che corrano il rischio, cosa a cui noi ci opponiamo strenuamente, di essere quel punto di riferimento nel territorio che è molto utile alle madri, ai giovani e spesso è anche un primo punto di integrazione se pensiamo alle mamme e alle donne migranti. Nessuno lo dice ufficialmente, anche andando in giro per consultori lo stesso personale ci dice che non sa quando smetterà di lavorare e dove andrà. Nessuno comunica la riorganizzazione e le infermiere dei consultori continuano a prendere appuntamenti con le mamme senza capire fino a quando potranno ascoltare, sostenere, aiutare. Se anche nessuno lo dice ufficialmente, la notizia è che entro la fine del 2010 la rete di assistenza sociosanitaria dedicata alle famiglie con bambini in età neonatale sarà profondamente cambiata. I 26 consultori pediatrici milanesi, dove sono chiesti consigli per i primi anni di vita del bimbo, che viene portato lì anche a vaccinarsi e a pesarsi, stanno per essere accorpati ai consultori familiari, dove ci sono anche ginecologi e psicologi. Il risultato finale di questo piano sarà la graduale chiusura degli attuali consultori di quartiere, dove ogni anno vengono vaccinati 80.000 bambini e dove 15.000 madri ricevono consigli e aiuto concreto per l'allattamento, la crescita, lo svezzamento e lo stato di salute dei figli. Perché? Lo abbiamo chiesto a Walter Locatelli, direttore sanitario delle ASL della città di Milano. Perché, le dico, questi consultori pediatrici, come erano chiamati prima, sono un pochino anacronistici, forse non è neanche il termine giusto, però ci arriva più vicino. Perché è una funzione parcellizzata che oggi non ha più senso. Gli ambulatori oculistici che c'erano, cioè tutte quelle attività che erano a conduzione dell'istituzione comune, oggi vanno ricondotti, ma per criteri di accreditamento, quindi ad un percorso che è quello definito da Regione Lombardia, da normative internazionali, nazionali e per noi declinate a livello regionale. Cioè noi stiamo cercando di valorizzare al meglio sia i pediatri di famiglia, ma soprattutto i nostri pediatri dipendenti direttamente dall'ASL, con un rapporto diretto con l'ASL, in un intervento che sia integrato. Ecco, ci sarà poi qualche ticket, qualcosa da pagare o sarà gratuito anche il consulto? No, questo tipo di attività non è oggetto. Cioè, mi fa una domanda in cui mi trovo impreparato e quindi le rispondo no con la certezza di non sbagliare, ma penso proprio che non esista questa situazione. Un consultorio ogni 20.000 abitanti era l'obiettivo scritto nella legge che nel 96, a 21 anni di distanza dalla prima istituzione dei consultori, consegnava alle regioni le competenze su questi organi. Oggi, ufficialmente, nella media nazionale c'è un consultorio ogni 28.000 abitanti. A questi però vanno aggiunti 134 consultori privati, laici e cattolici, che le regioni spesso finanziano. regione per regione, assistiamo poi a un lento e sistematico smantellamento di queste strutture. Tengono sulla media soltanto Emilia-Romagna, Toscana, Liguria. L'Emilia-Romagna, in particolare, è una delle regioni che ancora crede in questo sistema di welfare, come ci ha raccontato Maria Luisa Marcaccio, responsabile del Dipartimento Cure Primarie di Bologna e Provincia. L'azienda di Bologna innanzitutto è molto grande, 830.000 abitanti e soprattutto 50 comuni, con la grossa città e quindi grande concentrazione, ma anche una popolazione sparsa in montagna. Quindi dobbiamo tenere presente nell'organizzazione dei consultori pediatrici anche di queste diversità, in modo che comunque l'accesso sia uguale per tutti a servizi che sono importanti per i bambini e per i minori. I nostri servizi e le sedi di erogazione sono punti di riferimento per le mamme e per le nostre famiglie. Abbiamo ovviamente dei servizi anche differenziati, non so, per popolazioni extracomunitarie, per esempio, che sono accolte in un punto specifico della città con una progettualità di anni che è molto positivamente riconosciuta. E soprattutto l'integrazione con la pediatria di libera scelta ci dà la possibilità proprio di utilizzare al meglio tutte le risorse e i professionisti in una rete, proprio creando una rete di servizi in modo tale che il cittadino si senta sempre partecipe di questa rete e abbia sempre risposta ai bisogni che esprime. Italia in controluce. Terremo d'occhio lo sviluppo di questa vicenda dei consultori, ma adesso un'altra storia. Dopo 15 anni di divieto, i tifosi del Milan possono tornare in trasferta a Genova. In questi anni, per motivi di ordine pubblico, era stato vietato loro di tornare nella città dove il 29 gennaio del 95 un tifoso genovano di 24 anni, Vincenzo Spagnolo, era morto accoltellato in uno scontro violento con la tifoseria milanista. Un episodio che ha segnato il mondo del calcio. Domenica, però, in occasione di Genoa-Milan, cadrà questo muro. E in città c'è, a dire il vero, un po' di inevitabile preoccupazione. Andrea Ferro ne ha parlato con il padre di Vincenzo, Cosimo Spagnolo. Domenica 29 gennaio 1995, a Marassi è atteso il Milan. Lo stadio va riempiendosi e lungo la strada tra la stazione Brignole e il Ferraris un gruppo di ultra rossoneri incrocia alcuni tifosi avversari. Non finisce in una scazzottata, perché un ragazzo, Simone Barbaglia, non ancora 19enne, era partito da Milano con un coltello. Lo estrae dalle tasche e colpisce al petto Vincenzo Spagnolo, detto Claudio, 24 anni, odontotecnico. Muore all'arrivo all'ospedale. La partita inizia, poi la radio annuncia la tragedia. Match sospeso, seguono ore di guerriglia urbana. Fino a sera inoltrata i tifosi del Milan restano barricati nel settore ospiti. Nel corso della notte i carabinieri arrestano l'assassino. Sono stato chiamato da mia figlia, che tramite un'altra sua amica che aveva seguito più da vicino è riuscita a sentire queste cose, l'ha chiamata e gli ha raccontato quello che era successo. Allora lei è corsa lì, è andata, e quando si è resa conto di quello che era successo mi ha chiamato e mi ha detto: papà, guarda che devi venire giù al pronto soccorso di San Martino, perché Claudio è rimasto coinvolto in una rissa e quindi devi venire giù. Io avevo capito naturalmente che era successo qualcosa, non che fosse morto, no, quello no, che poteva essere successo qualcosa di serio, sì, perché lo capivo dalla voce di mia figlia, lo capivo di come mi diceva vieni giù subito, insomma ho capito che c'era successo, che fosse morto, no. Io molte volte mi rivolgo a lui, dice Claudio, allora penso, ciao Claudio, ciao. Cioè, come tiro sugli occhi, mi vedo la sua immagine. Da quel giorno, Genoa-Milan non è più stata una partita come le altre. Dopo il ritorno in Serie A del Genoa, ai tifosi rossoneri è sempre stata vietata la trasferta. Nel 2003, in occasione di Sampdoria-Milan, addirittura fu costruito un muro entro il quale confinare i supporters rossoneri giunti sul piazzale dello stadio e nasconderli al resto della folla. Domenica prossima quel muro cadrà. Il Comitato per la Sicurezza sulle Manifestazioni Sportive non ha vietato la trasferta ai milanisti, ma a Genova c'è preoccupazione. Io sono contento che comunque i tifosi continuano e sottolineano i tifosi, vadano a vedere la propria squadra anche in trasferta, perché mi sembra giusto, perché ognuno debba poter gioire o soffrire a seconda dei casi seguendo la propria squadra. È chiaro che però sto dicendo tifosi, non sto dicendo delinquenti. I delinquenti malati devono essere lasciati a casa. Signor Spagnolo, alla morte di suo figlio è seguita un'ondata emotiva fatta di proclami, buone intenzioni, sono stati adottati vari provvedimenti, ma non è cambiato praticamente nulla. Si è cercato di fare, ma vedo che non è stato incisivo, vedo che non ha avuto successo quello che è stato fatto, perché se noi vediamo gli ultimi atti di violenza, sia a Roma ancora che si sono accoltellati, sia a Genova purtroppo negli ultimi casi non ci sono state cose così violente, ma comunque sempre cose gravi sono, perché da lì può nascere un discorso che poi può morire qualcuno, può essere nascere qualcosa di veramente grave. Perché neppure la morte di un ragazzo di 24 anni è servita? Non siamo partiti realmente dal problema. Il problema è l'isolamento di questi, di questa gentaglia che si annida all'interno delle tifoserie, che non sono tifosi ma che si annidano all'interno per i loro interessi. Non hanno sicuramente l'interesse della propria squadra, l'interesse allo sport, hanno gli interessi diversi che sono quelli dello sport. Quindi noi, siccome li conosciamo, perché sono sicuro che le forze dell'ordine con le loro telecamere, le società di calcio che tante volte subiscono anche i loro ricatti, quindi ecco, penso che bisogna partire da lì. Se si parte da lì, io penso che i risultati ci possono essere. È tutto per Italia in Controluce, un programma con il coordinamento di Daniele Biacchessi. Potete scriverci le vostre storie a controluce@radio24.it oppure commentare i servizi che avete sentito. Siamo anche su Facebook, Radio 24 Italia in Controluce. Ci sentiamo domani.